Vergine Santa, causa della nostra letizia. Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli. Maria è stata assunta da Dio, in corpo e anima nei cieli. Ne gioiscono gli angeli e gli uomini. Perché ci pervade oggi questa letizia intima? Perché sentiamo il cuore traboccante e l'anima inondata di pace? Perché celebriamo la glorificazione di nostra madre, ed è naturale che i suoi figli, constatando l'onore tributatole dalla Trinità Beatissima, sentano una grande allegrezza. Cristo, suo Santissimo Figlio, nostro fratello, ce la diede come madre sul Calvario quando disse all'Apostolo Giovanni: «Ecco tua madre». Noi tutti l'abbiamo ricevuta, assieme al discepolo amato, in quel momento di immensa afflizione. Maria Santissima ci ha accolti nel dolore mentre si compiva l'antica profezia: «Una spada ti trafiggerà l'anima». Tutti siamo suoi figli. Ella è madre dell'umanità intera, e oggi l'umanità commemora la sua ineffabile assunzione. Maria è accolta in cielo, figlia di Dio Padre, madre di Dio Figlio, sposa di Dio Spirito Santo. Più di lei, soltanto Dio. Mistero d'amore. Stiamo contemplando un mistero d'amore. La ragione umana non riesce a comprendere. Solo la fede può spiegare come una creatura umana sia stata elevata a una dignità così grande da essere il centro d'amore su cui convergono le compiacenze della Trinità Divina. Ma trattandosi di nostra madre, ci sentiamo capaci, per così dire, di capire di più di quanto non ci sia concesso in altre verità di fede. Come ci saremmo comportati se avessimo potuto sceglierci la madre? Credo che avremmo scelto quella che abbiamo, ma l'avremmo colmata di ogni grazia. Così fece Gesù. Essendo onnipotente, sapientissimo e l'amore stesso, il suo potere compì per intero tutto il suo volere. È un ragionamento che i fedeli hanno scoperto da tempo. Era conveniente, scrive San Giovanni Damasceno, che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del padre. Era conveniente che la madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature, quale madre e schiava di Dio. I teologi, perché si potesse comprendere in qualche modo il senso di tutta l'abbondanza di grazie di cui Maria è rivestita e che culmina nell'assunzione in cielo, si sono espressi sovente con ragionamenti simili. Essi dicono: era conveniente, Dio poteva farlo, quindi lo fece. È la spiegazione più chiara del perché il Signore concesse a sua madre, fin dal primo istante della sua concezione immacolata, tutti i privilegi. Fu immune dal potere di Satana ed è tutta bella, tota pulcra, senza macchia e purissima nell'anima e nel corpo. Il mistero del sacrificio silenzioso. Guardate però che se Dio ha voluto innalzare in tal modo sua madre, non le ha risparmiato durante la sua vita terrena né l'esperienza del dolore né la stanchezza del lavoro né il chiaroscuro della fede. A quella donna che un giorno proruppe in lodi a Gesù esclamando: «Beato il grembo che ti ha portato il seno da cui hai preso il latte», il Signore risponde: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Era l'elogio di sua madre, del suo fiat, sincero, pieno di dedizione, portato a compimento fino alle ultime conseguenze, che non si sarebbe manifestato in gesti spettacolari, ma nel sacrificio nascosto e silenzioso di ogni giorno. Quando meditiamo queste verità, comprendiamo un po' di più la logica di Dio. Ci rendiamo conto che il valore soprannaturale della nostra vita non dipende dalla realizzazione delle grandi imprese che a volte ci figuriamo con l'immaginazione, ma dall'accettazione fedele della volontà di Dio, dalla disposizione generosa a far fronte al piccolo sacrificio quotidiano. Per giungere ad essere divini, per divinizzarci, è necessario imparare a essere molto umani, vivendo al cospetto di Dio la nostra condizione di uomini comuni e santificando questa apparente piccolezza. Così visse Maria, colei che è piena di grazia, colei che è oggetto della compiacenza divina ed è al di sopra degli angeli e dei santi, condusse un'esistenza comune. Maria è una creatura come noi, ha un cuore come il nostro, capace di provare la consolazione e la gioia, la sofferenza e le lacrime. Prima che l'arcangelo le comunicasse la volontà di Dio, la Madonna ignorava di essere stata prescelta fin dall'eternità per essere la madre del Messia. Si considerava creatura infima e perciò riconosce con profonda umiltà che in lei ha fatto grandi cose l'Onnipotente. La purezza, l'umiltà e la generosità di Maria contrastano con la nostra miseria e il nostro egoismo. Ce ne accorgiamo ed è logico che ci sentiamo spinti a imitarla. Siamo come lei creature di Dio e se ci sforziamo di essere fedeli, il Signore opera anche in noi grandi cose. La nostra pochezza non sarà di ostacolo. Dio sceglie infatti ciò che non ha valore perché risplenda di più la potenza del suo amore. Imitare Maria. Maria, nostra madre, è un modello di corrispondenza alla grazia. Se noi contempliamo la sua vita, riceveremo dal Signore la luce necessaria per divinizzare la nostra esistenza quotidiana. Noi cristiani pensiamo molte volte alla Madonna nel corso dell'anno, quando celebriamo le festività mariane e anche in diversi momenti di ogni giornata. Se approfittiamo di queste occasioni cercando di figurarci come si comporterebbe nostra madre nei compiti che dobbiamo svolgere, un poco alla volta finiremo per imparare e finiremo per assomigliarle come i figli assomigliano alla madre. Si tratta di imitare innanzitutto il suo amore. La carità non si ferma ai buoni sentimenti, deve essere nelle parole, ma soprattutto nelle opere. La Vergine non si limitò a dire fiat, ma realizzò in ogni istante la sua decisione, stabile e irrevocabile. Così noi, quando ci muove l'amore di Dio e conosciamo la sua volontà, dobbiamo impegnarci a essere fedeli, leali, e ad esserlo veramente, perché non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dobbiamo imitare poi la sua naturale e soprannaturale eleganza. Maria è una creatura privilegiata nella storia della salvezza. In lei il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Eppure fu una testimone discreta, che seppe rimanere nascosta. Non amò ricevere lodi, perché non ambiva la propria gloria. Maria partecipa ai misteri dell'infanzia di suo figlio. Misteri rivestiti di apparenze consuete, ma quando giunge il momento dei grandi miracoli e dell'osanna delle folle, ella si nasconde. Quando Gesù, che cavalca un asinello, è acclamato a Gerusalemme come re, Maria non c'è, ma riappare accanto alla croce, quando tutti fuggono. Questo contegno è il sapore, non studiato, della grandezza, della profondità, della santità della sua anima. Seguendo il suo esempio nell'obbedire al Signore, cerchiamo ora di capire l'insegnamento che ci viene dalla delicata combinazione di sottomissione e autorità che osserviamo in Maria. In lei non c'è ombra del contegno delle vergini stolte, che obbediscono ma senza criterio. La Madonna ascolta con attenzione quello che il Signore le chiede, riflette su quanto non comprende, domanda quello che non sa. Poi si dà totalmente al compimento della volontà divina. Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Non è meraviglioso. Maria Santissima, maestra di tutto il nostro agire, ci insegna così che l'obbedienza a Dio non è servilismo, non soggioga la coscienza, ci muove nel nostro intimo a scoprire la libertà dei figli di Dio. Scuola di preghiera. Il Signore vi avrà concesso di scoprire tanti altri lineamenti della corrispondenza fedele della Santissima Vergine alla volontà di Dio, tutti di tale forza da indurci a considerarli come esemplari: la purezza, l'umiltà, la fortezza, la generosità, la fedeltà. Io vorrei parlare di uno che li avvolge tutti, perché è il clima del progresso spirituale, la vita di preghiera. Per trarre profitto dalla grazia che in questo giorno la Madre Nostra ci offre, e per assecondare in ogni altro momento le ispirazioni dello Spirito Santo, pastore delle nostre anime, dobbiamo impegnarci seriamente in un attivo rapporto con Dio. Non possiamo rifugiarci nell'anonimato. La vita interiore è un incontro personale con Dio, altrimenti non esiste. La superficialità non è cristiana. Accettare la banalità nella nostra condotta ascetica è come sottoscrivere il certificato di morte dell'anima contemplativa. Dio ci cerca uno per uno. Noi dobbiamo rispondergli uno per uno: eccomi, Signore, perché mi hai chiamato? La preghiera, lo sappiamo bene, è un parlare con Dio. Qualcuno forse domanderà: parlare di che? Di che vogliamo parlare se non delle cose di Dio e di quelle che riempiono la nostra giornata? Parleremo della nascita di Gesù, della sua vita in questo mondo, del suo nascondimento e della sua predicazione, dei suoi miracoli, della sua passione redentrice, della sua croce e della sua risurrezione. E alla presenza di Dio uno e trino, invocando la mediazione di Maria Santissima e l'intercessione di San Giuseppe, nostro Padre e Signore, per il quale nutro tanto amore e tanta venerazione, parleremo del nostro lavoro quotidiano, della famiglia, delle amicizie, dei grandi progetti e delle cose piccole e forse anche meschine. Il tema della mia orazione è la mia stessa vita. Tale è il mio modo di pregare. Considerando la mia situazione concreta, sorge naturale il proposito, preciso e risoluto, di cambiare, di migliorare, di essere più docile all'amore di Dio. Un proposito sincero, concreto. Mi può mancare la supplica insistente e al tempo stesso fiduciosa allo Spirito Santo, perché non ci abbandoni, perché tu sei il Dio della mia difesa. Siamo dei comuni cristiani, lavoriamo in svariate professioni, tutta la nostra attività scorre lungo binari ordinari, tutto si svolge secondo un ritmo abituale, senza sorprese. I giorni sembrano tutti uguali tra di loro, perfino monotoni. Ebbene, questo schema di vita, in apparenza così consueto, ha un valore divino. È qualcosa che riguarda Dio stesso, perché Cristo vuole incarnarsi nelle nostre occupazioni e animare dal di dentro anche le azioni più umili. Questo concetto è una verità soprannaturale precisa, sicura. Non è una considerazione per consolare, per confortare quanti tra noi non riusciranno a iscrivere il proprio nome nel libro d'oro della storia. Cristo stesso è interessato a quel lavoro che dobbiamo portare a termine, mille e una volta, nell'esercizio della nostra professione manuale o intellettuale, in ufficio, in fabbrica, in laboratorio, a scuola, nei campi. È interessato anche al sacrificio nascosto che si offre per non riversare sugli altri l'amarezza del proprio malumore. Tornate su questi argomenti nella vostra orazione. Prendete spunto proprio da essi per dire a Gesù che lo adorate e vi ritroverete contemplativi in mezzo al mondo, nel rumore della strada, ovunque. E questa è la prima lezione nella scuola in cui si impara a trattare Gesù. In questa scuola Maria è la migliore maestra, perché conservò sempre un atteggiamento di fede, di visione soprannaturale, dinanzi a tutto ciò che accadeva nella sua vita. Custodiva tutte queste cose nel suo cuore e le meditava. Supplichiamo in questo giorno la Madonna perché ci faccia contemplativi, perché ci insegni a comprendere gli appelli costanti che il Signore rivolge alla porta del nostro cuore. Preghiamola. Madre nostra, tu hai portato sulla terra Gesù che ci rivela l'amore di Dio nostro Padre. Aiutaci a incontrarlo e a riconoscerlo in mezzo agli affanni di ogni giorno. Muovi la nostra intelligenza e la nostra volontà perché sappiamo ascoltare la voce di Dio e seguire l'impulso della grazia. Maestra di Apostoli. Non pensate però soltanto a voi stessi. Dilatate il vostro cuore fino ad abbracciare tutta l'umanità. Pensate prima di tutto a coloro che vi circondano, parenti, amici, colleghi, e cercate di vedere come far maturare in loro un senso più profondo di amicizia con nostro Signore. Se sono persone rette e leali, capaci di vivere più vicine a Dio in modo abituale, affidatele in modo particolare alla Madonna. E pregate per tante anime che non conoscete, perché tutti gli uomini sono imbarcati sulla stessa barca. Siate leali, generosi. Facciamo parte di un solo corpo, il corpo mistico di Cristo, la Santa Chiesa, a cui sono chiamati molti che cercano con schiettezza la verità. È nostro preciso dovere, pertanto, manifestare agli altri lo splendore e la profondità dell'amore di Cristo. Il cristiano non può essere un egoista. Se lo fosse, tradirebbe la sua vocazione. Non si ispira a Cristo il comportamento di coloro che si accontentano di conservare l'anima in pace, falsa pace, trascurando il bene degli altri. Dal momento che abbiamo accettato il significato autentico della vita umana, rivelatoci dalla fede, non possiamo restarcene tranquilli e come persuasi che ci stiamo comportando bene, quando in realtà non cerchiamo in modo concreto e pratico che gli altri si avvicinino a Dio. C'è un grosso ostacolo per l'apostolato, il falso rispetto, il timore di affrontare argomenti spirituali con l'idea che tali discorsi non saranno accettati in determinati ambienti e che si corre il pericolo di ferire talune suscettibilità. Quante volte questo modo di ragionare non è che la maschera dell'egoismo? Non si tratta di ferire nessuno, anzi al contrario, di servire. Benché personalmente indegni, la grazia di Dio ci trasforma in strumenti a vantaggio degli altri, consentendoci di partecipare loro alla buona novella. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ma è lecito entrare in tal modo nella vita degli altri? È necessario. Cristo è entrato nella nostra vita senza chiederci il permesso. Allo stesso modo aveva agito con i primi discepoli. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». Ognuno conserva la libertà, falsa libertà, di rispondere al Signore di no, come fece quel giovane carico di ricchezze di cui ci parla San Luca. Ma noi stessi, assieme al Signore, se vogliamo essere obbedienti alla sua parola, andate e insegnate, abbiamo il diritto e il dovere di parlare di Dio, di trattare questo grande tema umano, perché il desiderio di Dio è quanto di più profondo sgorga dal cuore dell'uomo. Maria Santissima, Regina Apostolorum, Regina di tutti coloro che anelano di far conoscere l'amore del tuo Figlio, tu che tanto comprendi la nostra miseria, chiedi tu perdono per noi, per la nostra vita, per tutto quello che in noi sarebbe potuto essere fuoco ed è stato cenere, per la luce che non ha illuminato, per il sale divenuto insipido. Madre di Dio, onnipotenza supplice, ottienici insieme al perdono la forza di vivere veramente di fede e d'amore, per essere in grado di portare agli altri la fede di Cristo. Una sola via, la santità personale. La via migliore per non perdere mai l'audacia apostolica, lo slancio ardente ed efficace di servire tutti gli uomini, altro non è che la pienezza della vita di fede, di speranza, d'amore, in una parola, la santità. Non trovo altra ricetta che questa, santità personale. In unione con tutta la Chiesa, celebriamo oggi il trionfo di colei che è madre, figlia, sposa di Dio. Allo stesso modo che esultavamo nel tempo di Pasqua per la risurrezione del Signore 3 giorni dopo la sua morte, ci rallegriamo oggi perché Maria, dopo aver accompagnato Gesù da Betlemme alla croce, sta accanto a Lui in corpo e anima, glorificata per tutta l'eternità. La misteriosa economia divina consiste in questo. La Madonna, resa pienamente partecipe dell'opera della nostra salvezza, doveva seguire da presso il cammino di suo Figlio, condividendone la povertà a Betlemme, la vita nascosta di umile lavoro a Nazaret, la manifestazione della divinità a Cana di Galilea, l'obbrobrio nella passione, il sacrificio divino nella croce, la beatitudine eterna nel paradiso. Tutto questo ci riguarda direttamente, perché questo itinerario soprannaturale deve essere anche il nostro. Maria ci dimostra che tale via può essere percorsa e che è la via sicura. Ella ci ha preceduti nel cammino dell'imitazione di Cristo, e la glorificazione di nostra madre è pegno di ferma speranza della nostra salvezza. Perciò la chiamiamo spes nostra, causa nostre letizie, nostra speranza e motivo della nostra felicità. Non possiamo mai perdere la fiducia di giungere alla santità, di rispondere agli inviti divini, di perseverare fino alla fine. Il Signore, che ha iniziato in noi l'opera della santificazione, la porterà a compimento. Infatti, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? In questa festa tutto è un invito alla gioia. La ferma speranza della nostra santificazione personale è un dono di Dio, ma la creatura umana non può rimanere passiva. Ricordate le parole di Gesù: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Vedete, la croce ogni giorno, nulla dies sine croce, non un giorno senza croce, non un giorno in cui non portiamo la croce del Signore, in cui non accettiamo il suo giogo. Proprio per questo, a suo tempo non ho mancato di ricordarvi che la gioia della risurrezione è la conseguenza del dolore della croce. Tuttavia non abbiate timore, perché è lo stesso Gesù che ci dice: venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. San Giovanni Crisostomo commenta: venite a me, non perché voglia chiedervi conto delle vostre colpe, ma per liberarvi dai vostri peccati. Venite a me non perché io abbia bisogno della gloria che potete procurarmi, ma perché ho bisogno della vostra salvezza. Non abbiate timore se sentite parlare di giogo, perché esso è soave. Non abbiate timore se vi parlo di peso, perché esso è leggero. Il cammino della nostra santificazione personale passa quotidianamente per la croce. Non è un cammino di infelicità, perché Cristo stesso ci aiuta, e lì dove è Lui non c'è posto per la tristezza. Mi piace ripetere: in letizia, nulla dies sine cruce, con l'anima penetrata di gioia, non un giorno senza croce. La gioia cristiana. Riprendiamo il tema che la Chiesa ci propone. Maria è salita al cielo in corpo e anima, gli angeli esultano. Penso anche alla gioia di San Giuseppe, suo sposo castissimo, che l'attendeva in paradiso. Ma torniamo sulla terra. La fede ci conferma che quaggiù, nella vita presente, siamo in cammino come dei viandanti e non mancano i sacrifici, il dolore, le privazioni. Tuttavia la gioia deve essere sempre come il contrappunto del cammino. Servite il Signore in letizia, perché non c'è altro modo di servirlo. Dio ama chi dona con gioia. Ama cioè colui che dà tutto se stesso in sacrificio lieto, perché non c'è nulla che possa giustificare l'afflizione. Forse vi sembrerà eccessivo questo ottimismo, dal momento che non c'è uomo che non conosca i propri limiti e i propri insuccessi, e non abbia fatto esperienza della sofferenza, della stanchezza, dell'ingratitudine e forse dell'odio. Noi cristiani, in tutto uguali agli altri, come possiamo essere esenti da queste costanti della condizione umana? Sarebbe ingenuo negare l'insistente presenza del dolore e dello sconforto, della tristezza e della solitudine nel nostro pellegrinaggio terreno. Dalla fede abbiamo appreso con certezza che tutto ciò non è frutto del caso e che il destino delle creature non consiste nel progressivo annientamento dei loro desideri di felicità. La fede ci insegna che ogni cosa ha un senso divino, perché fa parte dell'essenza stessa della vocazione che ci conduce alla casa del Padre. Tuttavia, questa comprensione soprannaturale dell'esistenza cristiana non semplifica la complessità umana, ma dà all'uomo la sicurezza che tale complessità può essere attraversata dal nerbo dell'amore di Dio, dal forte e indistruttibile cavo che lega la vita di quaggiù con la vita definitiva nella patria. La festa dell'Assunzione della Madonna ci porta a considerare la realtà di questa speranza gioiosa. Siamo ancora pellegrini, ma lei, nostra madre, ci ha preceduti e ci indica già il termine del cammino. Ci ripete che è possibile arrivare e che se saremo fedeli, arriveremo. Perché la Santissima Vergine non solo è nostro esempio, è auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. E dinanzi alla nostra supplica, monstra te esse matrem, non può né vuole rifiutare ai suoi figli le sue cure sollecite e materne. La gioia è un bene cristiano. Si eclissa soltanto con l'offesa a Dio, perché il peccato nasce dall'egoismo, e l'egoismo è la causa della tristezza. Ma anche allora la gioia è là, nascosta sotto le ceneri dell'anima, perché il Signore e sua madre non dimenticano mai gli uomini. Quando ci pentiamo, quando sgorga dal nostro cuore un atto di dolore, quando ci purifichiamo nel santo sacramento della penitenza, Dio ci viene incontro e ci perdona, e la tristezza se ne va. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Queste parole sono la conclusione meravigliosa della parabola del figliuol prodigo, che non ci stancheremo mai di meditare. Ecco il padre ti viene incontro. Si piegherà sul tuo collo, ti darà un bacio che è pegno di tenerezza e d'amore. Darà ordine che ti portino una veste, un anello, dei calzari. Mentre tu temi ancora un rimprovero, egli ti restituisce la tua dignità. Temi il castigo ed egli ti bacia. Temi la parola adirata ed egli prepara per te un banchetto. L'amore di Dio è insondabile. Se tale è il suo modo di agire verso chi l'ha offeso, che mai farà per rendere onore a sua madre, l'Immacolata, Virgo Fidelis, la Vergine Santissima sempre fedele? Se l'amore di Dio si manifesta con tanta grandezza, laove la capacità del cuore umano, così spesso traditore, è così piccola, che sarà di quell'amore nel cuore di Maria, la creatura che mai pose il più piccolo ostacolo alla volontà di Dio? Osservate come la liturgia della festa si fa eco dell'impossibilità di capire con ragionamenti umani la misericordia infinita del Signore. Più che spiegare, canta. Colpisce l'immaginazione affinché ognuno porti nella lode il proprio entusiasmo e supplisca all'insufficienza delle parole. Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Al re piacerà la tua bellezza. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito. La liturgia si concluderà con quelle parole di Maria nelle quali la più grande umiltà si unisce alla gloria più alta. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Cor Mariae dulcissimum, iter paratutum. Cuore dolcissimo di Maria, dà forza e sicurezza al nostro cammino sulla terra. Sii tu stessa il nostro cammino, perché tu conosci il sentiero più diretto e sicuro che conduce, per amor tuo, all'amore di Gesù Cristo.